you be free. My, Mama Africa, Africa, won't you be free? Oh, Africa, Africa, Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? I know them system is a plot. E benvenute e benvenuti a Radio Africa, trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Onda Rossa dedicata alle sonorità del continente africano, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Who can try? Who can try to be my enemy? My Africa want to be free. Oh Africa, Africa. 06 49 17 50 il contatto telefonico. Africa, Africa, won't you be free? Oh Africa, Africa, Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? As I know your system is a plot against my people. For us, nobody can be against us. If that is for my people, I don't know who can try, who can try to be my enemy. My Africa want to be free. Sono 36 anni che Radio Onda Rossa è libera nell'etere romano e laziale, quindi il conto corrente postale per sostenere questa radio è il 61 80 40 01, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Voci 56, Roma. Mama Africa, Africa, want to be free. Avete ascoltato dallo spot, questa sera al Volturno occupato dalle 21 si festeggerà il compleanno di Radio Onda Rossa. Africa want to be free, like a bird in the sky. If you don't know, if you don't, you got to know. Mama Africa is not free. Oh free, oh free. Mama Africa want to be free. Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? Oh Africa, Africa, Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? When I am talking about freedom, I am talking about economical freedom. When I am talking about freedom, I am talking about political freedom. If you don't know, if you don't, you got to know. Mama Africa is not free. E allora cominciamo con la nostra selezione per questo sabato 25 maggio e cominciamo con una selezione di voci femminili che sono molto molto presenti nella musica africana, dall'ultimo album di Rokia Traoré, cantante maliana che ormai si è affermata stabilmente, l'ultimo album che si chiama Beautiful Africa. Il brano è Tweet Tweet, un brano che ricorda il canto degli uccelli che si posano davanti alla sua casa di Bamako. Rokia Traoré. Ne wili la dundu bemiri meha mimbe joro kono kasira. Kono kasira, nyama tu tu tu. Kono kasira, karaka kapo kapo. Kia kia kia, ajoro nankote, idu Traoré dal suo ultimo album Beautiful Africa, in questo tweet che ricorda il canto degli uccelli che si mettono davanti casa sua per dividere l'ombra degli alberi e cantano anche in un momento in cui lei magari ha il cuore che viene assalito dalla disperazione o dalla stanchezza, e allora mentre si trova in questo stato melanconico e triste ascoltando questi uccelli che sembrano cantare solo per lei, lei si riprende come se ci fosse un raggio di di sole. E allora Rokia Traoré, andiamo ancora avanti con un'altra bellissima voce che viene dalla Costa d'Avorio. Lei è nata in Costa d'Avorio, ma poi si è trasferita in Mali nel 1997, ha fatto anche l'attrice nel film La Jeunesse di Sheikh Oumar Sissoko. Parliamo di Fatoumata Diawara, la nuova voce della musica africana. E allora ci ascoltiamo questo brano di Fatoumata Diawara che si intitola Bako no Bo. Che racconta di un uomo che mangiava tanto, mangiava troppo, qualsiasi cosa che lui vedeva nel piatto gli si avventava contro, finché si è innamorato di una fanciulla, ma poi veniva preso in giro dai bambini del villaggio che ridevano e lo chiamavano appunto Bakonoba, che significa uomo dal grosso ventre. E allora Fatoumata Diawara mi ricorda la prima Angélique Kidjo del suo primo album Logoso. E allora vi voglio far ascoltare questo brano Wewe, un brano che parla della guerra. Lei Angélique Kidjo. In Angiole a Gioloco, in Angiole a Giolode, o Godoe, in Angiole a Gioloco, in Angiole. Nukunuwe Angelique Kidjo dal suo primo album che risale al 1994, il brano è Wei Wei, il fuoco brucia nei nostri cuori, il fuoco brucia nelle nostre case, dicono che si tratta di ragion di Stato e dicono che è in nome della giustizia, ma oggi i torturatori si viziano, domani chi li giudicherà? Il fuoco brucia nei nostri cuori, il fuoco brucia nelle nostre case, questo era il testo di Wei Wei, canzone di Angelique Kidjo, 16:55 all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, questa è Radio Africa, continuiamo ancora con questa carrellata delle voci femminili della musica africana e andiamo a Dobe Gnaure. Lei viene dalla Costa d'Avorio, prima danzatrice e percussionista che ha imparato la tradizione Beté da suo padre Boni Gnaure, che era un maestro percussionista di una compagnia di Abidjan molto famosa. Poi dopo quello che è successo in Costa d'Avorio se n'è andata in Francia e poi ha ripreso la sua attività di musicista. Dal suo album Jekpa Layu ci ascoltiamo questo brano Evigné, Evigné che è un brano dedicato ai bambini in cui appunto lei riesce a mettere insieme i ritmi Beté anche con i ritmi del soukous congolese. Evigné le longtemps moulé nao, Evigné le longtemps moulé nao lo, Evigné le longtemps moulé nao. Mule nao, Evigné le longtemps, mule nao, lekelene, Evigné ni so di akona lenko masana no te me na ma oko so ne se weni les enfants du monde entier et vignes. Travolgente, un finale in cui lei dimostra di saper muoversi benissimo con il soukous congolese. Siamo arrivati alle 17, un'altra bellissima voce femminile che viene dall'Africa è quella di Umu Sangaré. Lei è nata nel Vassolù, una regione nel nord del Mali, e fin da piccola ha cominciato a cantare. Lei suona uno strumento particolare che è uno strumento che in genere veniva suonato dai cacciatori e che avevano un ruolo molto importante all'interno della società tradizionale maliana, perché erano quelli che naturalmente procuravano il cibo. Ma è uno strumento, il kalamengoni, che non era appannaggio delle donne, mentre invece lei ha cominciato a suonarlo, e questo ha anche confermato, insomma, la sua attitudine a ribellarsi contro l'ordine maschilista che vigeva in Mali, una società estremamente tradizionale e anche arretrata dal punto di vista della libertà per le donne, anche se sono loro quelle che praticamente portano avanti la società. E infatti lei si è fatta portatrice delle istanze delle donne maliane, nei suoi concerti addirittura gli uomini non entravano. E allora noi ce la ascoltiamo in un brano del suo ultimo album, il brano è Wele Wele Wintu, e lei è Umu Sangaré. Wele wele wentule, wele wele wentule. soro furula o furu mana kedu bonya te soro furula o furu mana kedu karama te soro furula ni misako Wele wentu neti tanche lala nisi mabo wele wentu neti tanche lala Sangare in questo brano Wele Wele 17.06 all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50. Questa è Radio Africa. Un'altra voce femminile, lei si chiama Kamaldeen e viene dalla Guinea. Ha fatto la sua prima cassetta nel 2002, ma aveva già cominciato a suonare intorno agli anni 90, a cantare come voce, come backing vocals con By and There e con i Positive Black Soul. Poi ha incontrato un produttore che si chiama Bonkai Namaiga, che appunto l'ha convinta a percorrere la carriera musicale, e quindi ci ascoltiamo questo brano che si chiama Jibilen Return, ritorno, e lei è Kamaldeen, ed entriamo un po' in certi ritmi e certe sonorità che cominciano a ricordare l'Africa lusofona. Yeah. ma se soto se soto se soto itanera ba ma di bile ironi ira bori raina ima ina lumiri rongi rongi na mbore muna ina lui rongi na nambore muna ina lui rongi na nambore muna. Ritorno, una voce potente e bellissima, e dalla Guinea ce ne andiamo in Capo Verde, dove incontriamo naturalmente Cesaria Evora in questa Nutridigna, una canzone dedicata a una ragazza che è incinta, e quindi l'invito appunto a non guardarla da parte del ragazzo, altrimenti la madre la picchia, e questa bambina che comincia a guardarsi e a vedersi trasformata, e questa coladeira a lei appunto che viene dedicata. Ma questo Nutridigna è un'inversione un po' rimaneggiata da Kerry Chandler, e allora ce l'ascoltiamo. Agora é só Cesaria Evora, rimissata da Kerry Chandler in questo Notridigna, si sono fatte le 17:17, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza, e questa è Radio Africa. Vi ricordo che oggi Radio Onda Rossa compie 36 anni e quindi ci sarà una serata per ricordare questa radio che dal 1977 continua ad essere la voce dei senza voce. Serata al Volturno occupato, a via Volturno 37, ci sarà alle 21 un estratto teatrale a cura della compagnia Controcorrente, che si chiama Revolution, poi L'Oscura Marmaglia, che è un reading da un libro di Dario Pacino, poi ci saranno materiali, video, audio di repertorio, e poi ci sarà un DJ set con le sonorità del 77. Allora continuiamo il nostro percorso attraverso le voci femminili dell'Africa e ce ne andiamo in Sudafrica, dove incontriamo Mbeki Mseleku, meglio conosciuta come Tunokwe, una delle più interessanti cantanti sudafricane degli anni 90. Ha cominciato insegnando la musica nelle township ai bambini e poi si è trasferita a Londra e a New York, dove è stata presso la famosa scuola di musica di Manhattan, la Manhattan School of Music, per poi tornare e concretizzare il suo potenziale con un percorso appunto solista, musicista che è molto affermata in Sudafrica. Ci ascoltiamo questo brano, uno dei suoi primi brani, che si intitola Inya Ka Nya Ka, e lei è Tunokwe. nacque dal Sudafrica, anche lei una voce bella e potente. Quando si pensa al Sudafrica si pensa naturalmente a Miriam Makeba e il suo Patapata, però Patapata ve lo voglio far ascoltare in questa versione di Kumba Gaulo. Kumba Gaulo è una musicista e cantante che viene dal Senegal e che ha vinto anche a 14 anni il concorso come voce d'oro del Senegal. Gaulo in Pular significa griot, infatti lei è ha origini, il padre ha origini griot. Lei è una ragazza molto impegnata anche dal punto di vista diciamo così dell'impegno civile, perché attraverso la sua musica ha cercato di sensibilizzare le parti, per esempio fino a Bouaké, che è una città della Costa d'Avorio, durante gli scontri, durante la guerra civile, per cercare di portare, diciamo così, un messaggio di pace. Ha partecipato anche a un concerto in Senegal allo stadio Leopold Senghor per Africa for Haiti, per sostenere Haiti dopo il terremoto, e si è anche insomma indignata per la mancanza di aiuti che provenivano dall'Africa verso un popolo fratello. Allora Kumba Gaulo ce l'ascoltiamo in questa sua versione di Patapata. Questa sua versione di Patapata, ma Miriam Makeba naturalmente ve la facciamo sentire, ed è un pezzo che si chiama African Convention. Era il periodo in cui Miriam Makeba cominciava la sua carriera con i Manhattan Brothers, e poi insieme a Letambulu e altri due cantanti aveva costituito un quartetto femminile di Mbube, che è un tipico genere musicale sudafricano. E dopo che Sophia Town, il quartiere multietnico di Johannesburg, che venne cancellato dall'apartheid intorno agli anni 50, lei lavorò in molti variety show organizzati da promotori bianchi, e poi, approfittando della tournée in Inghilterra con il gruppo King Kong Musical, se ne andò via da quel Sudafrica dove non poteva più stare. African Convention. Tell me, delegate, Miriam Makeba in questo African Convention, in cui la sua potenza veramente esplode in questo brano travolgente. 17:34 all'ascolto di Radio Onda Rossa, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Africa e vi ricordo anche il contatto telefonico 06 49 17 50. Miriam Makeba ha suonato insieme a Letambulu. Lei, Letambulu, era nata a Soweto e aveva cominciato a suonare anche lei molto giovane, poi aveva lasciato il Sudafrica per andare negli Stati Uniti, anche lei perseguitata dall'apartheid. Una musicista che ha cantato con Cannonball Adderley, con Harry Belafonte e anche con i Roots. E allora ce ne ascoltiamo in questo brano che si chiama Makongo insieme a Yuk Masakela. Suo brano insieme a Yuk Masakela, Makongo. Allora dal Sudafrica ce ne andiamo su per il nord, arriviamo in Somalia, dove incontriamo una musicista che si chiama Mariam Mursal. E lei viene da una famiglia musulmana e fin da teenager aveva cominciato a rompere, diciamo così, la tradizione suonando a Mogadiscio. E lei suonava in nightclub, faceva blues, soul e anche musica influenzata dalla tradizione somala, il cosiddetto Somali Jazz, e divenne piuttosto famosa. Poi la situazione in Somalia divenne critica durante soprattutto il governo militare, e quindi lei fu esiliata e si procurò da vivere guidando un taxi, e durante la guerra civile se ne andò a Gibuti, dove chiese asilo politico all'ambasciata della Danimarca, per poi appunto andarsene a vivere in Danimarca. Qui ha incontrato Peter Gabriel, che gli ha prodotto il suo album The Journey, e da questo album vi voglio far ascoltare la quarta traccia, che si chiama So The Woo, e lei è Marianne Mursal. Yeah. Edin kalga, egen vite, gachirin kalga, amelenya, galandi sau, atastanya. Oya oye gude chawatano dumare. Oya oye gude chawatano dumare. Oya oye zinastenka kisuzana. Oya oye zinastenka kisuzana. Oya oye gude chawatano dumare. Oya oye gude chawatano dumare. Oya oye zinastenka kisuzana. Oya oye zinastenka kisuzana. Gani magita? የተመኩ ከግንባሩ ላይ አለው መልእክት እሱስ ባላባት የከበረ ነው ይሄን ቁመና የሰጠማለው እሱም ባለንቁ ያጌጠች ናት እንደው በቀላል ሰው አያት ከነገው ማያት የሷስ ውበት ከጀግና ልጅ ናት የጌታ ሚስት Loro vengono dall'Etiopia e Bullet to Harlem, un progetto che va a incontrare la musica, il pop di Harlem con la musica etiope, soprattutto gli etiopi della diaspora che stanno negli Stati Uniti. Il brano è Oya Oye. Oggi è il giorno in cui l'Eritrea festeggia l'indipendenza, sono 20 anni dal quel 1993, il referendum che vide vincere con il 98% i favorevoli all'indipendenza dell'Eritrea dopo una guerra sanguinosa di liberazione contro il colonialismo etiope. E questo le forze dell'FLPE entrarono a Massawa prima, 2 anni prima. Il percorso poi del presidente Afewerki e di quello che è diventato lo Stato Eritreo, un percorso che diciamo così ha deluso decisamente le aspettative anche rispetto a quelli che sostenevano la lotta del popolo eritreo. Magari troviamo il tempo per parlarne un po', intanto loro sono gli Asmara All Stars, musicisti eritrei che riprendono appunto la musicalità eritrea. E allora non parte, ogni tanto ci fanno questi scherzi e quindi ancora in sottofondo mettiamo, anche se non è molto coerente, un po' di musica etiope. Thank you. loro sono gli Asmara All Stars. La lotta del popolo eritreo è una lotta che inizia già dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il potere coloniale, quello italiano appunto sconfitto, gli inglesi invadono quelle che era una parte della vecchia Africa occidentale italiana e per 10 anni stanno lì fino al 1950, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre del 50 decide di costituire una federazione fra l'Etiopia e l'Eritrea, ma era una federazione che nasceva già in maniera totalmente asimmetrica, considerando che l'Eritrea avrebbe avuto un governo competente su tutte le materie tranne la difesa, gli affari esteri e la moneta, quindi di fatto diventava una sorta di confederazione però appunto sbilanciata verso l'impero etiope. L'Eritrea riconosceva già la libertà di espressione e di associazione, mentre invece il governo imperiale di Haile Selassie aveva tutt'altre tendenze. E poi cominciava in quel periodo la Guerra Fredda, quindi questa federazione nasce anche con un accordo fra Haile Selassie e gli Stati Uniti, l'accordo che prevedeva la concessione delle basi sul Mar Rosso agli Stati Uniti, concessione che effettivamente avvenne, e la base militare che fu concessa agli Stati Uniti era estremamente importante ed era e costituiva parte di quel patto militare che nel 1953 aveva fatto appunto dell'Eritrea la posta più importante. In quella base transitarono circa 30.000 soldati americani. E questa l'Etiopia oltretutto vedeva così garantito il suo diritto, il diritto dell'impero etiope allo sbocco al mare, e questa premessa naturalmente portò inevitabilmente a una situazione di tensione, finché poi furono gli stessi etiopi, con un atto che violò le decisioni, le risoluzioni dell'ONU nel 1962, a decidere di fatto l'annessione dell'Eritrea, e da lì cominciò una lotta di liberazione che vide in prima fila il fronte di liberazione etiope, che era un fronte di liberazione legato in qualche maniera agli ambienti musulmani e che divideva un po' l'Eritrea fra i musulmani che erano contrari all'Etiopia e i cristiani che venivano identificati con i cristiani copti, che erano la maggioranza appunto nello Stato imperiale. Successivamente, intorno agli anni fine degli anni 60, venne alla ribalta il fronte di liberazione popolare dell'Eritrea, che aveva una interpretazione differente, voleva sì l'indipendenza ma voleva anche cambiare in qualche maniera gli assetti sociali feudali che ancora rimanevano in Eritrea, aveva diciamo così un'ideologia marxista anche se non dogmatica, e cominciò uno scontro di potere fra il fronte di liberazione eritreo e l'FPLE, uno scontro che si concretizzò in una vera e propria guerra civile che dissanguò i quadri della rivoluzione. FPL condusse questo scontro fino agli anni 70, fino alla fine degli anni 80, quando praticamente estromise l'FLE dal terreno, e l'ideologia dell'FPLE si riteneva parte di un blocco progressista rivoluzionario, aveva rapporti con l'OLP e con i movimenti di liberazione delle colonie portoghesi. Ma la situazione, il quadro cambiò radicalmente quando l'imperatore fu abbattuto dal colpo di stato dei militari nel 1974, colpo di stato che portò al potere il Derg, e si cominciava a vedere da parte Eritrea forse degli spiragli, considerando che il partito al potere adesso ad Addis Abeba aveva abbattuto l'imperialismo amara, aveva portato anche il feudalesimo, e si diceva di voler ripristinare la democrazia e impiegava un linguaggio molto simile a quello del Fronte Popolare. Ma invece l'obiettivo del Derg era tutt'altro, era un obiettivo di dare un'autonomia controllata all'Eritrea, che naturalmente non si confaceva con gli obiettivi di indipendenza. Ci furono delle trattative finché non si esplose questa completa incomprensione fra una rivoluzione sorda alle aspirazioni nazionalistiche, e quindi ricominciò la guerra di liberazione eritrea. Questa volta la guerra di liberazione eritrea ricominciò fra due campi che all'interno del contesto della guerra fredda erano molto simili, perché da una parte l'Etiopia veniva sostenuta dall'URSS e il fronte di liberazione eritreo veniva sostenuto da alcuni ambienti per esempio arabi e anche dai movimenti di liberazione nazionali, e anche qui da noi, diciamo così, i movimenti rivoluzionari occidentali guardavano con interesse questo esperimento dell'FPLE e sostenevano la rivoluzione eritrea contro il dogmatismo dell'Etiopia e contro quello che era di fatto un imperialismo, quello sovietico. E allora poi ci fu il cambio di campo da parte dell'Etiopia, che passò appunto che fu sostenuta dagli Stati Uniti, anche se poi gli interessi geostrategici degli Stati Uniti si affievolirono in quell'area. E decisivo fu anche l'accordo fra il fronte patriottico eritreo e i combattenti del Tigray, e questa unione portò poi nel 91 alla sconfitta del regime e all'entrata ad Asmara dell'esercito eritreo, e poi appunto alla successiva al referendum che dette l'indipendenza. La disgregazione del potere di Mengistu, la sua fuga nello Zimbabwe e appunto la disfatta del Derg, che ormai combatteva su tre fronti, sul fronte eritreo, sul fronte del Tigray e sul fronte dell'Ogaden, alla fine aprì la strada all'indipendenza dell'Eritrea. Indipendenza dell'Eritrea che poi fu appunto festeggiata anche perché si trattava della prima volta che uno Stato africano diventava indipendente attraverso una secessione, quando poi nella realtà dei fatti aveva rotto quel dogma per cui le frontiere erano inviolabili. Purtroppo dopo l'indipendenza continuò questa guerra sanguinosa con l'Etiopia, fu una guerra che soprattutto le ultime fiammate, quelle che vanno dal 98 al 2000, estremamente sanguinosa per il controllo di alcune cittadine strategiche, e comunque il potere di Afeworki, che già all'epoca dal secondo congresso dell'FPLE uscì fuori come l'uomo forte dell'Eritrea, il potere divenne un potere autocratico, e infatti in Eritrea sono conculcati i diritti umani, diritti di associazione, non si vota, e la resistenza eritrea insomma continua sul fronte interno. headed a rust. Ask a bumaru, but I'm yalla bus. Yakitis of loud ash to in the cover. El jelemach a fergas light legaba. Yakot him march it is so shedan. Lalta yes, kistat as I got it. Chalo, but reclay what the jeba dis soon as kista halam and las ayish. I need a red hat. Conjoy the subsivo, I nine in behind your DJ music. I won't see chapter in linge. But me gallo, I know what I got as a ting. What a touch for a garage, but the swamp got. But I'm the medicine. When I lay here, can't follow by a cabin. Caswagar, I did really spine a gap. Caswagar, I did really spine a gap. Allora, sono le 18, Radio Africa se ne va e se ne va lasciandovi in compagnia di questo brano di Nasrawan Zela Menawi, un musicista reggae eritreo, e se ne va lasciandovi in compagnia di Soul Peanuts e il suo jazz. Quindi rimanete sintonizzati e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, e vi ricordo che questa sera al Volturno Occupato, via Volturno 37, dalle 21 in poi si festeggeranno i 36 anni di Radio Onda Rossa. Ci saranno appunto un estratto teatrale a cura di una compagnia controcorrente, Revolution, e poi un reading, L'Oscura Marmaglia, reading dal libro di Dario Pacino, materiali video, e poi dopo 77 Sound, un DJ set. I don't.